Eccoci! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pepito Rossi che poi parte sul lancio di palla del Pepito Rossi davanti al portiere, il sinistro della rete, Pepito Rossi segna un gran gol. Una bellissima serata, sì, per i tre punti, per il gioco che abbiamo fatto. Credo che abbiamo dato continuità a quello che stiamo facendo, che quindi a livello di squadra è molto importante, a livello personale i 90 minuti prima di tutto, e poi il gol che è stato una bella azione nostra. Keita forte, teso, la porta è vuota, Biglia con deviazione chiude la partita, Lucas Biglia, 3-1 per la Lazio. Stiamo recuperando i giocatori infortunati che sono troppo importanti per la squadra, quindi cominciamo a vedere la Lazio l'anno scorso. Higuain la mette giù, cerca lo spazio per il destro, è tipita dal limite, ancora Higuain, la tiene, Higuain, prova Higuain, che gol ha fatto Higuain, straordinario, lo dice anche lui, mamma mia, lo dice anche Higuain, 2-0. Mi è piaciuto il fatto che la squadra la vittoria l'ha voluta, perché ha giocato con determinazione, quindi sono contento dei ragazzi ultimamente erano stati fuori, perché sono rientrati su buoni livelli, vuol dire non avevano mollato niente e ci possiamo fare affidamento. Buon pomeriggio a tutti, Salone Nautico di Genova per un i convocati sempre più itineranti. A te non mi funzionava il microfono, me lo sono sognato l'altra notte. Al Salone Nautico di Genova, dicevo, per un tutti convocati sempre più itinerante. L'altro giorno eravamo a Cersaie e oggi siamo a Genova. Cronaca, piove piuttosto forte, tira vento, fa un discreto freddo, però l'affluenza che oggi non è male, qui a Genova. 800 24 00 24, numero verde. Giorgio Luca, il mio autore, qui con me insieme a Michele Previato, Elisa Piras del marketing, buongiorno. Tris o triplete ieri, chiamatelo come volete, triplete forse è chiave più moderna, non lo so. Straripante la Fiorentina con Pepito Rossi che torna al gol 501 giorni dopo. Implacabile il Napoli, che peraltro, questo è il dato forse più interessante, al di là di quel gol straordinario di Higuain, ha subito un gol nelle ultime 5 partite. Col cuore in gola invece la Lazio in casa con il Saint-Étienne, con un dopo partita piuttosto brusco. Io saluto e ringrazio di cuore mister Francesco Guidolin. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio a voi. Non fa un salto a Genova al Salone Nautico, no? Preferisce la bicicletta come sempre. Beh, la mia passione è per la bici, ma non è detto che non possa fare un salto a vedere qualcos'altro. Insomma, di passioni ne ho più di qualcuna. lo so bene. Io già ne anticipo che poi chiudo con domande sul ciclismo, dopo il calcio. Va bene, volentieri. Va bene. Molto bene, senta, Eurobilancio, 4 vittorie di diverso peso e di diverso colore e un disastro che invece ha un colore solo, cioè quello giallo-rosso. Io direi che tutto sommato stiamo andando bene in Europa e questo fa bene al calcio italiano, le posizioni sono buone di tutte le squadre, anche la Roma che ha perso una brutta partita in Bielorussia ha comunque fermato il Barça e ha tutte le possibilità di andare avanti nel girone. Per le altre direi bene, a cominciare dalla Juventus che insomma ha fatto un'ottima gara, ha ottenuto una bella vittoria. Per le altre 3 squadre italiane impegnate in Europa League, bene, molto bene, quindi bene, molto. Soddisfazione in generale per i risultati delle nostre. Al di là di quel ranking UEFA che è un'entità sempre un po' astratta, che però comincia a sorriderci, io vorrei sottoporre una considerazione tattica che ho provato a sviluppare ieri con Tacchinardi sulla Juventus. Si è sottolineata da tutte le parti l'importanza di Khedira, che è stata la grande novità, e io e Tacchinardi siamo trovati d'accordo nel dire che è importante anche e soprattutto per il rendimento di Pogba, che forse non ha ancora la personalità, quasi la faccia del leader di questa squadra. Forse, viste l'assenza di Khedira per lungo tempo e di Marchisio che non ha mai messo piede in campo, Vidal è partito, Pogba si è trovato forse a navigare in un mare troppo grande per lui. È corretto? Sì, è un'analisi psicologica più che un'analisi tattica, ma direi che è condivisibile, perché per il semplice motivo che il ragazzo è ancora molto giovane e quindi certo, la capacità e la personalità di giocatori del giocatore d'esperienza non glielo possiamo chiedere, perché di esperienza ancora ne ha poca. Il fatto di poter scendere in campo e giocare a fianco di un giocatore che invece di esperienza a livello internazionale ne ha tantissima, come Khedira, è sicuramente importante, o come qua sarà Marchisio quando starà bene. Credo che questo sia sicuramente condivisibile. Mi ha stupito e mi ha sorpreso in positivo la prestazione di Khedira. Non pensavo che potesse, dopo un lungo infortunio, proporsi per più di un'ora e giocare così bene. Quindi questo è sicuramente un giocatore importante che può far bene nel complesso alla Juve e in particolare ai compagni di reparto. Certo. Mister, che un istante di pazienza, abbiamo il traffico, poi chiudiamo il discorso con la Roma e con il Napoli. Tutti convocati. Convocati. Allora, con grande piacere stiamo chiacchierando con Francesco Guidolin. Mister, andiamo alla Roma. Una Roma che adesso sembra una squadra slegata, sciolta. Lei quali principali problemi vede in questa squadra? Ah, non saprei proprio. È così difficile risolvere i problemi già quando ci sei dentro. In un club e a comandare, a guidare una squadra, figuriamoci da fuori. Poi non sarebbe nemmeno corretto di anche tentare di dare un giudizio. No, quattro giorni fa ha dato un'impressione positiva in campionato, battendo largamente il Carpi. È chiaro che nessuno si aspettava una sconfitta sul campo del Bate Borisov, però che si può dire? La Roma, dal punto di vista dell'organico, forse è la squadra più forte che c'è in Italia, e o comunque una delle fra le primissime. In questo momento manca della continuità, indubbiamente, questo sì, lo dicono i risultati, però insomma siamo all'inizio di stagione. Credo che le possibilità per passare il turno ci siano tutte, per quanto riguarda la Champions ci siano tutte, se la dovrà vedere negli scontri con il Bayer Leverkusen, che è una squadra molto difficile, molto complicata da affrontare, e non sarà facile, però la Roma ha i mezzi per poterlo fare e la possibilità di recuperare in campionato c'è. Però sì, dire quali sono i problemi non è difficile, è molto difficile per tutti, ma insomma poi bisogna stare dentro quell'ambiente e anche dentro quello spogliatoio, perché le parole di Florenzi mi hanno abbastanza sorpreso. Comunque, invece, se la Roma piange, il Napoli adesso comincia a ridere. Un gol subito nelle ultime 5 partite. Sarri, che ha avuto anche l'umiltà, voglio dire, di cambiare le sue idee, di ridisegnare la squadra. Io sono sempre molto critico nei confronti dei cambi ad inizio stagione, soprattutto del turnover. Ad esempio, sono stato critico nei confronti di Mancini, che sconfitta episodica, disegnata gli episodi della Coppa della Fiorentina, però ha schierato una squadra che forse ha messo in difficoltà i singoli interpreti. Il Napoli invece ha trovato, mi sembra, l'equilibrio giusto, l'equilibrio corretto ora, e si vede anche in fase difensiva, io credo, ma lei me lo potrà insegnare, e addirittura può permettersi un turnover in Coppa senza pagare dazio, anzi vincendo in trasferta. Allora, tanta carne al fuoco. La Roma, scusate, il Napoli, secondo me, da quando è passata dal 4-3-3, dal 4-3-1-2, sembra poco, ma è migliorata moltissimo. Io credo che abbia i giocatori adatti per giocare così, e credo che tutta la squadra preferisca giocare in questo modo, e Sarri è stato bravissimo a intuire questa possibilità, a giocarla, a farla giocare alla squadra, e quindi direi che quando il Napoli è in serata, come abbiamo visto in queste ultimissime settimane, è la squadra che gioca meglio in Italia insieme alla Fiorentina. Quindi bravo, intelligente, sensibile, umile l'allenatore, che sta dimostrando di potersi meritare la chiamata e una piazza così importante come Napoli. Per quello che riguarda il turnover, io invece la penso diversamente da coloro che dicono che In settembre non è il caso di farlo perché ci sono squadre che sono ancora dei cantieri, è vero, questo è un aspetto da sottolineare, da considerare, perché a inizio stagione le squadre, i giocatori sono comunque freschi e ti verrebbe voglia e sembrerebbe necessario, soprattutto per quelle squadre che hanno cambiato o l'allenatore o tanti giocatori, farli giocare il più possibile insieme per poter far prima nell'apprendere quelle che sono le idee dell'allenatore. Però bisogna tener conto di un fatto, che le squadre che giocano la Champions League o le coppe europee e che hanno dei giocatori che fanno parte dei gruppi nazionali, se qualche volta nei periodi in cui c'è partita di campionato, partita di coppa, certo, partita di campionato, certo, partita, il turno infrasettimanale, poi molti di questi viaggiano con le nazionali e non hanno la possibilità di recuperare mai. Quindi se vuoi averli freschi a marzo-aprile, questo lo dico per esperienza vissuta, visto che le coppe le ho fatte anch'io, certo, con le mie squadre, certo, devi comunque pensare al turnover. Poi può essere massiccio, può essere non massiccio, può essere... ognuno poi valuta a seconda delle situazioni. Sì, però non utilizzare un po' di rotazione, secondo me, può diventare pericolosissimo per la durata della stagione e per il logorio che il campionato italiano esercita sulle squadre. E in più c'è un altro aspetto, che se giocano sempre gli stessi, quando hai bisogno degli altri non puoi dire ho fiducia in tutti e faccio giocare sempre gli stessi, e poi magari giocano gli altri solo quando sei in condizioni di emergenza. Almeno ci vogliono un 18-20 giocatori che possano far parte della rosa a pieno titolo e dare il loro contributo continuativamente, sennò è difficile. Essere coinvolti nelle rotazioni, esatto, insomma. Esatto. Coinvolti nelle rotazioni per non uscire, anche per non consumarsi in panchina, questo è chiarissimo. Sì. Perché questo il giocatore l'avverte, se gioco perché il mio allenatore fa una rotazione, allora vuol dire che ha fiducia in me. Se un giocatore gioca solo perché ne mancano 5, allora quella è un discorso diverso. Mi chiama quando ha bisogno. Insomma, esatto. Questo. Quanto le piace la Fiorentina? Lei ha detto gioca il miglior calcio in questo momento in Italia insieme al Napoli. Quanto le piace la Fiorentina e cosa sta portando secondo lei Paolo Sosa, se sta portando qualcosa di nuovo? Come no, cioè, intanto le sue qualità di uomo, di allenatore, la sua, diciamo, il suo equilibrio mi piace molto nelle espressioni, anche quando giudica le vittorie, insomma, quando parla della squadra senza mai alzare i toni, però quello che fa vedere sul campo la squadra è qualcosa di importante, quindi, ma non tanto dal punto di vista del modulo, perché la Fiorentina anche con Montella aveva spaziato giocando in più modi e giocando bene in più modi, quindi lui ha raccolto un'eredità e comunque un solco già tracciato, ci sta mettendo del suo con questo bel possesso palla, ma con mi piace molto per esempio il 2-1 avanzato quando gioca con un attaccante solo, quindi pochissimi punti di riferimento, e mette come trequartisti Borja Valero e Ilicic, sono due giocatori sì offensivi ma che in momenti particolari della gara possono aiutare i centrocampisti, quindi una squadra che sa cambiare pelle, che sa cambiare volto, che sa giocare bene a calcio, che è la cosa più importante. Molto moderna, molto, molto moderna. Mister, per chiudere, Francesco Guidolin, adesso veniamo all'argomento che più mi interessa. Mi dà una lettura, un giudizio su Fabio Aru e sulla stagione storta di Vincenzo Nibali? Beh, non è intanto una stagione storta quella di Vincenzo Nibali, perché arrivare quarti al Tour de France è comunque qualcosa di importante dietro a corridori di grandissimo livello. Quindi per fortuna anche nel ciclismo adesso comincia a contare di più il podio e comunque anche le varie posizioni, perché non è vero che ci si ricorda negli Albodoro, del corridore che vince, però, però contano anche i piazzamenti. E c'è stata una parentesi sfortunata, quella della Vuelta, nella quale purtroppo è uscito di scena dopo un giorno, ma io ho seguito questa fase della preparazione al mondiale il mondiale stesso, che non era un circuito adatto a lui, ma proprio per corridori come Sagan, per esempio, di grande esplosività. Lui è andato forte anche al mondiale, ed è andato forte prima e dopo il mondiale, lo hanno dimostrato le gare che hanno, si sono svolte in Italia prima e dopo. E per non un bel mondiale nostro però, mister, non un bel mondiale. Ma non, perché ci manca, sicuramente ci manca un corridore alla Sagan, alla Degenkolb, alla Philippe Gilbert, alla Christoph, così ci manca, indubbiamente ci manca. Però la nazionale comunque secondo me si è comportata bene, perché all'ultimo giro eravamo con tanti effettivi a giocare qualcosa di, a giocarsi qualcosa di importante. Poi manca quel corridore che in un percorso come quello, con l'esplosività che ha un corridore come Sagan, che è riuscito a staccare tutti nel penultimo strappettino e andare a vincere da solo. A noi manca, quindi il pozzato che non è mai arrivato, insomma, un corridore mai... proprio con quelle caratteristiche lì, con quelle caratteristiche lì. E per quello che riguarda Aru, invece, ha fatto una stagione importante, ha lottato fino alla fine per il Giro d'Italia, è stato battuto da quello che per me negli anni 2000 è stato il più grande corridore che abbiamo visto, cioè Alberto Contador. Contador ha vinto la Vuelta, ragazzo con un grande entusiasmo, una bella coppia fra Nibali e Aru, veramente una bella coppia. Noi abbiamo in questo periodo i corridori che possono far bene nelle corse a tappe, perché abbiamo vinto il Tour l'anno scorso, la Vuelta quest'anno, insomma saremmo perfetti se avessimo anche il grande Finisterre, ma purtroppo in questo momento non c'è. E in questo momento storico non c'è, però Aru l'anno prossimo proverà con il Tour. Non so se sia ancora maturo fino in fondo, però ha le stimate del grande corridore. Sì, e poi secondo me ha l'età giusta per cominciare a puntare anche alla corsa a tappe più importante del mondo. Grazie mister, grazie davvero per questa chiacchierata. Grazie, Francesco Guidolini, è stato un piacere. 800 24 00 24, signori miei, in diretta da Genova, dal Salone Nautico di Genova, oggi sotto un discreto diluvio e nuvoloni neri che si addensano, non so anche se su Sampdoria Genova di domenica, qui c'è allerta, poi ne parliamo. Sampdoria Inter, scusami Giorgio De Luca, Sampdoria Inter, stavo pensando Inter Genova Genova, poi parleremo anche del calcio genovese, non so se ci possono essere problemi, poi proveremo a chiedere delucidazioni. Intanto chiediamo il parere di Filippo Davarese. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo solo, adesso Guidolin immagino che sia andato via, comunque la domanda che volevo fare a Guidolin era questa: come lo stimo come allenatore, insomma, quanto conta in una squadra allenatore e quanto contano invece i giocatori, perché lui è uno di quegli allenatori bravissimi, credo che abbia vinto anche una panchina d'oro, che però non è approdato, a parte credo il Monaco, non è approdato ad una, diciamo, una grande squadra, quindi perché glielo chiediamo la prossima volta, ma questo quanto conta l'allenatore, quanto contano i giocatori è l'eterno dilemma, no? Abbiamo avuto allenatori che dicevano l'allenatore è importante che non faccia danni, abbiamo avuto allenatori invece che sopravvalutavano questo tipo di ruolo. A me sembra che così in valore assoluto, se non hai grandi giocatori non arrivi da nessuna parte, prima cosa. La seconda cosa è che allenare un top club, che sia Real Madrid, il Barcellona, il Chelsea, tante volte si è parlato di Mourinho, ma bravo, vince con quei giocatori che ha. Allenare un grande club credo sia un mestiere un po' diverso rispetto al fare allenatore, ad allenare un club di altre dimensioni. Io me la sbrigo così, però mi appunto la domanda, la prossima volta che sentiamo Guidolin prometto gliela giro. Andiamo con la borsa, 800 24 00 24, dopo dovrebbe arrivare anche Pardo, no? Dopo la borsa arriverà? Lo scopriremo vivendo. Torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta. Che dire, arieccici. Convocati. E torniamo in diretta al Salone Nautico di Genova. L'intensità della pioggia è un po' diminuita, c'è chi però gira con il ho visto adesso con il casco della moto in testa per ripararsi dal diluvio. Ciao Pierluigi Pardo. Come stai? Come va? Benissimo, benissimo. Beh, insomma, Romano, ieri ho intervistato Soldini, grande, che parlava delle tempeste dal Salone Nautico. Sì. Ci sta anche questo sacco d'acqua, no? Sacco d'acqua intorno dal cielo, mi sa che mi serve il gommone per andare a casa, se mi puoi venire a prendere, grazie. Lo scelgo, non voglio fare pubblicità, ma avrei delle idee sul gommone. Avresti qualche idea. Marco da Novara, Sebastiano da Siracusa, poi abbiamo un altro ospite dopo Francesco Guidolin. C'è un ascoltatore che mi scrive: dopo che hai sentito Guidolin hai capito cosa serve il turnover a settembre? Beh, ognuno si tiene le sue idee, ovviamente la sua molto più illuminata, competente della mia. Io continuo a pensare che adesso forse il Napoli possa permettersi il turnover, visto che ha imparato la strada. E allora ieri sera turnover, poi ovviamente entri Guain e fa quel gol pazzesco. Altre squadre in costruzione probabilmente in questo momento non se lo possono permettere, ed questo lo dimostrano credo anche i risultati. Marco Novara, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì. Volevo una considerazione, non so se la pensate come me. Sono un tifoso juventino, no? L'altra sera ho visto la partita e su una punizione della Juventus, è una cosa che vedo fare da tante squadre, oltre alla barriera che dispone il portiere avversario, si mettono in barriera due o tre giocatori della Juventus, sì, in questo caso. È respinta del portiere, nessuno che raccoglie la palla. Ma cavolo, ma io dico, ma è possibile che bisogna mettere questi tre giocatori che non servono a niente a disturbare la barriera per cosa? C'erano tre giocatori disponibili su un'eventuale respinta che potevano magari far gol. Non so cosa ne pensate voi. Beh, ma risponde il portiere Pardo in questo caso. Io credo che la barriera multipla sia per rompere le scatole al portiere, no? Per nascondergli la visuale. Assolutamente, poi è ovvio che se hai dei giocatori reattivi che in caso di respinta, di ribattuta sono in grado di intervenire, meglio, però insomma sono situazioni statiche. Guarda, adesso francamente la posizione in questione non me la ricordo, però ti dico che in generale credo che ci sia sempre più attenzione a queste situazioni di palla inattiva, perché tutte le statistiche legate al calcio dimostrano che un po' anche perché è cresciuto l'equilibrio e quindi chiaramente c'è meno differenza mediamente fra una squadra e l'altra, insomma le situazioni da palla inattiva sono importantissime, sono molto più importanti rispetto a 10 o 20 anni fa, e quindi da questo punto di vista è giusto studiare scientificamente tutto. Però detto questo, il problema della Juve è che secondo me certamente ha perso dei tiratori, uno su tutti ovviamente Andrea Pirlo, che lo scorso anno uno di quelli che ti può fare la differenza, paura, sì. No? Sì, questo è chiaro. Sentiamo anche Sebastiano Siracusa, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la buongiorno, convocazione. Ma grazie a lei. Com'è il tempo laggiù? Qua è stupendo, anche se in troppo caldo. Che piove nel nord della Sicilia, ma qui sono quelle cose, sono quei problemi. Quanto fa? Tipo oggi saranno 26-27 gradi, no? 26 gradi, per esempio. Quei problemi veramente. Il tempo perfetto, cioè il tempo che c'è in paradiso. Abbiamo altri tipi di problemi gradi a ottobre, che fastidio. Le siamo vicini, Salvatore. Sebastiano, scusami. Senti, sì, io volevo dire questo. Io sono tifoso della Sampdoria e mi chiedevo, visto che quest'anno possiamo dire di avere veramente dopo anni alla Sampdoria una rosa molto molto competitiva, con un attacco composto da Muriel ed Eder, che sono due attaccanti che secondo me hanno pochi in Italia. Un centrocampo di tutto rispetto con Fernando, Soriano, Barrete, eccetera. Che cosa c'è che non va? A me viene da pensare che sia stata sbagliata la scelta dell'allenatore, perché insomma Zenga, massimo rispetto per quello che ha fatto da giocatore, ma come allenatore non ha dimostrato secondo me molto, è stato tanti anni fuori e quindi insomma c'è più di una perplessità. Volevo sapere cosa ne pensavate voi. Ma mi sembra che la Sampdoria 10 punti a uno dalla Roma, a due dalla Lazio Sassuolo, mi sembra che sia in perfetta linea di galleggiamento in proporzione all'organico. Ma guarda Pierluigi, ci ha raggiunto Ottavio Bianchi. Buongiorno mister. Buongiorno. Buongiorno. Come vuole aiutarci a rispondere all'ascoltatore sulla Sampdoria, tanto per cominciare prima di parlare. Ho sentito io, diceva che l'organico della Sampdoria è eccellente. Cosa c'è che non va? Mi sembra che ci sia poco che non vada in questo video, salvo ovviamente lo scivolone di pesante, brutto del preliminare di Europa League, però mi sembra che la Sampdoria sia in linea di galleggiamento, no? Sì, sicuro. Tutte queste squadre stanno andando bene, oltre non dimentichiamo che l'Atalanta stessa, il Torino, la Fiorentina, tutte squadre che non erano accreditate per essere nella zona alta, facilitate dalla mancanza di squadre, le squadre importanti che hanno un po' frenato, e sono lì e se la giocano. Il campionato quest'anno è un campionato decisamente col freno a mano tirato, e dà la possibilità a tutte queste squadre che non hanno dei grossi impegni, ma comunque un buon organico, oppure già anche perché ci hanno lavorato sopra, non hanno. Bisogna tenere in considerazione anche gli acquisti dell'ultimo momento, che gli acquisti al sabato, poi il giorno dopo, la domenica giocano. Sì. Insomma, ci sono tante situazioni da tenere in considerazione, e ovviamente stanno facilitando le squadre che non hanno grossi impegni e sono ben organizzate. Pierluigi Pardo, quando senti parlare di Ottavio Bianchi, cosa ti viene in mente? Beh, mi vengono in mente tutte cose un po' romantiche che segnano il fatto che anch'io lentamente, con grande classe, però sto invecchiando, perché sono i primi ricordi di quando ero bambino, quando ero adolescente, è soltanto un allenatore. No, ecco, la curiosità che ho io, oggi abbiamo avuto prima Guidolin, che è uno degli allenatori proprio che rappresentano la sostanza, uno dei quali spesso si dice non ha il physique du role per la grande squadra, ma in realtà poi se guardiamo i risultati, questi risultati sono eccezionali. Volevo capire da Ottavio Bianchi che idea ha di quanto conta l'immagine nel calcio moderno, a proposito del ruolo dell'allenatore, che ormai è sempre di più un gestore a 360 gradi anche di altre cose, di altre situazioni. Allenare i giornalisti, diceva una volta Pesavola, ma oggi veramente bisogna allenare l'ambiente, le televisioni, le radio, fidanzate, le mogli. Avete proprio preso la persona ben indicata, perché io sono l'opposto di tutto questo. Infatti il mio grande ricordo del mio grandissimo allenatore e amico Bruno Pesavola, che ricordo con grande affetto e commozione, quando era a Napoli, che andavamo, era una delle poche persone che frequentavo, e andavamo fuori il martedì, mi ricordo, la sera, mi diceva sempre: ma insomma, o non capisci proprio, che tu devi fare così, così, cosa devo fare, Bruno? Tu vai davanti ai giornalisti, comincia a parlare, puoi dire tutte le sciocchezze che vuoi, già non capiscono. L'importante è che tu parli, invece perché ti fai fare delle domande e poi gli rispondi così in maniera secca? E dico: guarda Bruno, che hai avuto un pessimo allievo. In effetti sono stato un pessimo allievo in questo senso. Per rispondere alla domanda è che indubbiamente è cambiato tutto, pensi proprio, l'allenatore ormai è un uomo di comunicazione più che di lavoro, pensi allo staff. Io veramente mi fa sorridere il tattico della difesa, il tattico dell'attacco, chi più ne ha più ne mette, non so, 7 persone, 8 persone, solo gestire questo, e indubbiamente devono solo gestire questo, e non i giocatori, mi sembra, lo psicologo. Sì, sì. L'uomo dell'iPad, quello del computer, il motivatore. Motivatore. Ecco, Pesavola, un Rocco, giù di lì tutti i grandi allenatori che ho avuto, se sentissero parlare di motivatori, non vi dico cosa avrebbe pensato il buon Nereo, avrebbe detto no, Muso dei. Via. Siamo dicendo. In fascia protetta, lei dice. veramente. D'altronde il mondo è cambiato, io non lo capisco. capisco molto questo. Non dimentichiamo che ho avuto anche un grandissimo allenatore bresciano all'inizio, che si chiamava Renato Zei, e mi diceva: oh, ci sono tre cose, laura e tal. Immagina adesso. Adesso è tutto meno che lavorare. Siamo cresciuti in un altro mondo. Non è detto che sia migliore quello di prima, quello da adesso, ma in effetti quello è profondamente diverso. Stare su la sera a preparare in albergo, preparare o a casa, preparare l'allenamento per il giorno dopo, per gli anziani, per i giovani, pensare per delle ore, delle giornate con i collaboratori, perché questo giocatore non lo puoi utilizzare in questa maniera, cose dirgli, cose non dirgli, se aveva problemi familiari, il gatto, il cane. Adesso è tutto diverso. Adesso mister, dirigenti. Adesso ci sono moglie e fidanzate che scrivono un tweet e cambiano un po' di cose, sto volentieri fuori, anche perché non potrei stare a durare neanche. Ho dei vecchi miei giocatori o collaboratori che ovviamente in questo mondo io non potrei stare a durare neanche un giorno o una settimana. Ma non è detto, mister, posso su questo risentire? Nel senso, poi le persone intelligenti, pardon, brave, poi allora aspetta un attimo, Pierluigi, aspetta un attimo. La discussione è interessante, la riprendiamo subito dopo il traffico, un attimo. C'è il traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, eravamo rimasti a questo punto con Ottavio Bianchi collegato con noi, e di nuovo ringrazio, che diceva: in questo calcio non durerei neanche un giorno. E Pardo che invece manifestava il suo dissenso. Eravamo rimasti qui. No, Pierluigi. Perché penso chiaramente che poi le persone intelligenti e gli allenatori bravi poi si possano adattare anche in contesti diversi. Sono perfettamente d'accordo, non gliel'ho fatta così a caso, proprio perché credo che il mister rappresenti un certo tipo di calcio, un certo tipo di cultura del lavoro che oggi è cambiata in maniera radicale. Appunto, non c'è il meglio e il peggio, assolutamente non c'è il meglio e il peggio, però sicuramente si è passati da un allenatore che decideva e che essenzialmente era artefice responsabile delle sue azioni in toto, a delle strutture molto più complesse, a delle sfaccettature molto più complesse, al fatto di dover allenare l'ambiente, dover controllare mille aspetti e insomma un po' la cultura anche dell'apparire oltre che dell'essere, quindi sì, senza farla troppo filosofica. Però sono convinto poi che uno bravo possa far bene. Insomma, qui abbiamo Guidolin, che è un altro emblema da questo punto di vista, è uno che ha sempre fatto bene. Poi probabilmente se avesse avuto un physique du role un po' diverso avrebbe avuto più occasioni, ma lui in realtà anche occasioni le ha anche avute nella sua carriera, no? Perché comunque ha anche rifiutato grandi squadre, quindi certo, ma sono anni che passano e che puoi prendere oppure no, poi certe volte conta anche la fortuna contro altre dinamiche, altre cose. Ma invece Ottavio Bianchi, volevo chiedere, giusto per andare a chiudere, andando verso Milan-Napoli, Napoli-Milan, che è una partita tutt'altro che banale, no? Il confronto tra Milan e Napoli, insomma, ci riporta e riporterà anche lei, io credo, ad emozioni forti. Io volevo chiederle un giudizio su Sarri, invece, come lo considera? A me sembra che questa Napoli sia una meraviglia. Continuano a chiedermi un giudizio su questo, veramente non è che voglio rifiutare, ma non posso darlo perché non lo conosco personalmente. Sì. Non l'ho mai visto allenare, di solito io anche quando andavo a scegliere gli allenatori per le mie squadre ho dovuto fare anche questo. Non è che lo scegliessi per la moda, perché era bello, biondo, con gli occhi azzurri, ma andavo personalmente, mandavo persone a vedere come allenava per mesi, e poi volevo vedere se gli davo a disposizione una squadra giovane, vecchia, se era abituato a trattare in un determinato ambiente, tantissime sfaccettature che comportavano la scelta di un allenatore. Io l'ho visto due volte solo le partite del fuori mi sembra che sia un allenatore che abbia lavorato bene l'anno scorso, però non lo so, i precedenti, non lo so, veramente cosa ha fatto, cosa non ha fatto. So che ha lavorato molto, ha fatto molta gavetta e questo è sicuramente una cosa molto importante. Io diffido sempre dalle, dalle promozioni sul campo, diventano subito generali. E, insomma, io preferisco gente che ha fatto esperienza, che si è fatto la gavetta, che ha maturato giorno per giorno, che ha sbagliato giorno per giorno, perché anche lì, ricordando i miei vecchi allenatori, ma per mia esperienza, dicevo, oh, questa volta ho lavorato bene. Perché ho lavorato bene? Perché ho sbagliato meno del solito. Insomma, questo l'allenatore, hai sempre la possibilità. Poi io ho sempre sbagliato, fortunatamente da solo, ho sempre avuto delle squadre, delle società che mi hanno dato la possibilità di lavorare, volenti o nolenti, era così, se volevano ingaggiarmi, ed era una cosa che magari rimanevi solo in una stanza di albergo, però non avevi altri problemi, i problemi te li dovevi risolvere da solo. Certo. Questo signore onestamente non lo conosco, conosco l'ambiente di Napoli, vedo che l'hanno accettato con molta attenzione, favorevolmente, questo è importante. Non dimentichiamo che la prima volta che io sono andato a Napoli a fare l'allenatore e non volevo andare assolutamente, c'è stata una corte di Italo Lodi per tantissimo tempo, perché io conoscevo l'ambiente e venivo da esperienze, avevo fatto la gavetta più nera, dalla C2 alla C1 alla B e alla A, e sempre facendo risultati ogni anno, non bucando una volta. E sono andato a Napoli, la conferenza stampa, non dimentichiamo che l'anno prima in Napoli con i grandi giocatori, Maradona e sì, avevano giocato per non retrocedere per molto tempo dietro a noi piccoli del Como, un opinion leader di Napoli nella conferenza stampa mi dice: ma come fa lei a sentirsi a suo agio che viene da una squadra, io avevo anche allenato l'Avellino, che viene da squadre che abituate a giocare per non retrocedere e venire in una grande squadra? Questa è stata la prima domanda che mi hanno fatto. Bellamente la mia risposta è che avevano paura di non retrocedere, hanno preso un allenatore sicuro per non farli retrocedere. Visto che l'anno prima avevano giocato per non retrocedere. Invece mi sembra che Sarri l'abbiano accettato bene, e sono piazze importantissime, molto belle e nello stesso tempo affascinanti, che hanno i pro e i contro. Però affascinanti molto pericolose, sono affascinanti e molto pericolose come certe signore. Grazie mister, prego, la ringrazio, grazie davvero. Ottavio Bianchi, Pierluigi, tu stai lì, accompagnami oltre le colonne d'Ercole del GR e poi torniamo a parlare con gli ascoltatori e parliamo di calcio genovese. 800 24 00 24, in diretta dal Salone Nautico di Genova. Grazie, buon appetito. Tutti convocati. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si ricomincia! Tutti convocati! E torniamo in diretta dal Salone Nautico di Genova, aggiornamento meteo. Nulla è cambiato, piove e tira vento. Pierluigi Pardo è sempre collegato con noi. Abbiamo Salvo da Catania, Daniele da Milano. Buongiorno Salvo. Buongiorno e grazie di avermi convocato. Ci dica. Volevo fare una riflessione magari sarcastica. Oggi le squadre di Serie A internazionali di calcio sono delle grandi aziende con milioni e milioni di fatturato, eppure sì, ci troviamo nella situazione in cui se non viene un thailandese il Milan non ha i soldi, se l'Inter non entra in Champions è quasi fallita, la Juve fa milioni di fatturato però va sempre sotto. Eppure voi correte nelle sale stampe, noi andiamo a comprare i giornali di questi finissimi manager. Ma siamo sicuri che queste grandi aziende italiane, perché alla fine sono questo, sono nelle mani dei manager migliori? Perché spiega, perché noi saremo tutti pazzi allora. Mi sembra che sia un fenomeno abbastanza generalizzato, cioè non soltanto italiano questo. Sono grandi aziende e hanno i loro problemi, no, Pierluigi? Non mi sembra questione di legato di Volkswagen, tanto per citare l'esempio. Bravo, esatto, banale, no? Dicendo, stavo dicendo io. Magari non è neanche colpa sua dal punto di vista diretto. Quello che è andato via, Winterkorn, se la passi benissimo, possa essere additato, esatto, come un esempio virtuoso. No, io penso in generale che il mondo del calcio sia un mondo a livello di strutture professionali che in questi ultimi anni si sta dando una dimensione vera, una dimensione più aziendale, nel senso che secondo me la novità appunto di un approccio un po' più industriale, serio, tra mille virgolette, un pochino meno, diciamo così, paternalistico al calcio e alle aziende, certo, nel marketing e negli aspetti più commerciali, sta venendo fuori negli ultimi anni. No, ma poi molte grandi potenze europee sono nelle mani di investitori stranieri, e gli esempi sì, li conosciamo tutti. Straniero non c'entra niente, dai. Appunto, il discorso che faceva l'ascoltatore, cioè non è questione, adesso sì, i capitali si muovono in quella direzione. Sappiamo bene di chi sia la proprietà di Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea e così via, quindi questo non vuol dire che i manager francesi, inglesi o spagnoli siano scarsi, no? Ma no, ma faccio l'esempio della Roma, che ovviamente può essere discutibile dal punto di vista tecnico su mille cose, e poi il calcio è liquido, quindi cambia di settimana in settimana, ma certamente si sta muovendo su tutta una serie di progetti più di medio e lungo periodo, certamente con idee molto innovative, e ha una proprietà che viene dall'estero, la Juve che si è fatta lo stadio di proprietà, che certamente è avanti da questo punto di vista, la proprietà italiana, cioè non è quello secondo me. E comunque è pieno di aziende con manager bravi che faticano per raggiungere la parità di bilancio. Sì, il calcio, chiaro, poi da questo punto di vista è anche uno sport. Non solo il calcio, non solo, no, il calcio. Appunto, è anche uno sport, c'è anche un settore aziendale con un soggetto sociale appunto particolare, nel senso che comunque è legato a aspetti molto aleatori. Il rendimento, certo, della, certo, partita, chiaro. La qualificazione alla nuova Champions. Se tu pensi al rigore di Higuain. Quanto ha pesato, no, dal punto di vista di bilancio per il Napoli, che poi va a non c'è nessuna grande non c'è nessun settore, io credo, non voglio fare discorsi filosofici o economici, finanziari eccetera, però non c'è nessun settore così, nessuna grande industria così aleatoria come quella del calcio. Appunto. Da Genova non possiamo non sentire Giampiero Timossi, non può mancare Giampiero Timossi visto che trasmettiamo da Genova. Come stai? Ciao Giampiero, bene. Sì, sotto il discreto di questa solita imitazione, però è un onore insomma avere l'imitazione di Pardo. Come stai, Simo? Hai letto il mio pezzo su Foucault? Beh, questo qui sa che fine ha fatto Pardo. Andiamo a cercare che fine ha fatto Mohamed. Fine ha fatto Foucault, è un bel pezzo questo. Lo sai o no? Non lo sai. Ignorante, una bella straordinaria di Mossi è la pausa telefonica e sospiro. Avrò le adenoidi, cosa vuoi che. Senti Giampiero, mi sembra che la lanterna del calcio genovese sia accesa, no? Tutto sommato, anche se un ascoltatore prima diceva la Sampdoria ha un organico che meriterebbe più di questa classifica, forse sbagliata la scelta di Zenga, non sono così d'accordo, almeno visto i risultati attuali. Zenga è sempre sotto esame a Genova, credo anche in parte non in maniera immeritata, insomma, perché è un allenatore che comunque può dare tanto a questa società. Ricordiamoci che in questo momento l'allenatore più osannato e quello che sta facendo meglio è Paolo Sousa era molto vicino alla Sampdoria quest'estate, è stato poi bocciato dal presidente Ferrero perché ha preferito la personalità di Zenga, sostanzialmente credo che abbia preferito anche l'approccio di Zenga, perché Zenga ha detto voglio allenare la Sampdoria, lasciando un po' carta bianca al presidente Ferrero che, come tutti i presidenti e forse anche più di altri presidenti, ama gestire poi in prima persona quelle che sono le cose del calcio. Paolo Sousa, sì, nel suo incontro con Ferrero forse aveva avuto qualche richiesta in più, insomma, non soltanto era abituato agli impianti sportivi della Svizzera, e quindi anche dal punto di vista dell'impiantistica, e poi probabilmente voleva anche mettere maggiormente becco, la mano in quelli che sono, quelle che erano poi le scelte di mercato della Samp. Su Zenga, in questo momento alcuni, mi parlavi tu dello scetticismo di alcuni tifosi, forse pesa ancora un po', intanto l'eliminazione del preliminare di Europa League, ma quella in qualche modo io credo che non sia stata, poi non sia stato poi uno shock particolarmente pesante. E dall'altra parte il caso Cassano, perché Zenga si era espresso chiaramente, ha detto che non voleva Antonio Cassano, non considerava Antonio Cassano parte integrante del suo progetto, secondo me sbagliando, fortunatamente ci ha ripensato, e quindi però i tifosi, ancora molti tifosi sampdoriani, moltissimi amano Cassano, e soprattutto non potevano far altro che apprezzare la volontà, la caparbietà con la quale il giocatore voleva tornare a Sampdoria. Certo. Informa Pierluigi che Zenga dice che quella era una valutazione che era stata fatta prima del preliminare di Europa League, perché la società gli aveva chiesto di valorizzare altri giocatori, quindi non c'era nessuna preclusione nei confronti di Cassano. Questo sì, dice lui, sì, poi. No, secondo me, Pier, cioè nel senso che comunque mi sembrava abbastanza evidente la scelta di non avere Cassano in rosa. Poi è chiaro che qualificazione non raggiunta, e soprattutto quando la pressione in città era stata fortissima per riavere Cassano in squadra, è probabile, io non dico che tu abbia torto, però è probabile che comunque sia trovata una formula politicamente corretta per definire quanto era accaduto, no? Sì, questo è chiaro. Beh, Cassano non è ancora entrato però nei meccanismi della Sampdoria, anche per problemi fisici, ritardi di preparazione, è stato fermo per lungo tempo. Non si è ancora visto Cassano nella Sampdoria, si è visto invece la Sampdoria, soprattutto si è visto Eder. Pier, come vedi invece il Gasp, che tu sei appassionato del settore, un grande cuoco, qualunque ingrediente gli mettono in mano, ok, questo non lo puoi più usare, quell'altro non lo puoi usare più, però la minestra è sempre buona, Beh, insomma, se il Genoa avesse tenuto la metà dei talenti che ha avuto in questi anni, anche 30%, forse sarebbe dove la Fiorentina, o forse sarebbe lì in mano nella zona rosa, insomma, Da un lato un riprovero che facciamo a Preziosi, che poi spesso si è complicato la vita in questa ansia da acquisti e cessioni, dall'altra però è anche vero che almeno dal punto di vista degli osservatori ha avuto la possibilità di maneggiare, di segnalare e in qualche caso di comprare proprio giocatori anche di grandissimo livello, insomma i nomi sono tantissimi. Esiste un Genoa pre-Genoa Milan e un Genoa post-Genoa Milan, nel senso che quella di domenica scorsa è stata la partita della rinascita, il Genoa ha avuto la peggiore partenza da non so quanti anni. Certo, non lo ricordo più, ma molti, veniva da quattro sconfitte nelle prime cinque giornate, una sola vittoria contro il Verona, domenica però si è vista una squadra che è scesa in campo tranquilla, di testa e anche di fisico, ha avuto un pizzico di fortuna ovviamente sulla deviazione, poi però la vittoria l'ha portata a casa veramente a testa altissima, quindi adesso sono molto curioso da Udine in poi di capire se ci sarà una crescita. Sicuramente Gasp è uno che si trova ogni anno, ma come qualsiasi allenatore del Genoa si trova ogni anno con una squadra completamente diversa dall'anno prima. La chiave mi sembra chiaramente Perotti, dove c'è anche un aumento di stipendio, ma insomma è il giocatore fondamentale, dopo le mille successioni di mercato è il leader tecnico di questa squadra. Sì, mi dicevate all'inizio, no, se brillano le squadre genovesi, io spero che in questo campionato così incerto poi alla fine le squadre genovesi riescano a brillare anche di più. È vero quello che dice Pier, che Perotti sicuramente dopo il prolungamento del contratto comunque resta il giocatore per Gasperini, uno dei giocatori per Gasperini fondamentali. È anche vero che Gasperini nelle prime partite col suo gioco offensivo ha creato molto, ma non aveva poi un finalizzatore, perché Pander comunque non è in condizione, Pavoletti era assente. Bisogna vedere un po' nelle prossime partite, con un organico al completo, comunque più competitivo, cosa riuscirà a fare anche il Genoa, perché poi anche questo campionato voi l'avete visto meglio di me, è strano. Io guardo la Fiorentina, che era contestatissima dai tifosi a inizio stagione, adesso è in testa alla classifica, anche ha avuto nelle prime gare, lo dico senza voler essere provocatore, però anche un pizzico di fortuna. una grandissima partita con il Milan e poi una partita che non è stata neanche una partita contro l'Inter, perché insomma chi si aspettava un Inter così? Non, certo. Per Sosa non è stato neanche necessario fare pressing alto, possesso spalla, bastava mandare la palla avanti, perforare la difesa inguardabile dell'Inter ed ecco che arrivava al gol. Però poi nelle altre partite ha incontrato ad esempio un Genoa vincendo soltanto con un Bolgio Vakar che era davvero spuntato e quindi non riusciva e non meritava poi di tutto sommato di perdere questa partita. Se non sbaglio ha incontrato il Carpi che ha vinto in misura, quindi mi sembra un campionato davvero anche molto incerto. Io non sono ancora così euforico del gioco di questa Fiorentina, anche se ieri poi ha fatto benissimo, e sono invece molto felice del ritorno al gol di Pepito Rossi, però aspetterei un attimo prima di capire come questo campionato. Però dalla sensazione di essere una squadra che ha trovato la via, così come Napoli. Rispondiamo insieme a Daniele da Milano che sta aspettando da diverso tempo e poi salutiamo Giampiero Timossi e anche Pierluigi Pardo e chiudiamo con anticipazioni su Italia e Irlanda di rugby ai mondiali. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. Io sono un tifoso della Juve, niente, ho sentito poco fa anche Pardo che parlava ancora di Pirlo, che la Juve l'ha perso, eccetera, eccetera. Però secondo me, il mio parere è questo, che Marotta quest'anno ha sbagliato semplicemente la campagna acquisti. Può succedere, voglio dire, perché di Pirlo probabilmente si sapeva già 3 anni fa, quando la Juve l'ha preso, come una candela che sta per finire, insomma uno immagina che a 33 anni, quando l'ha preso io 3 anni fa, che stava era al termine della sua carriera, stava faceva un anno, 2 anni, 3 anni, cioè aveva avuto 3 anni per sostituirlo. Lo stesso si dice di Tevez e di Vidal, perché già da un anno fa si sapeva, quindi e non ha sostituito nessuno dei tre, ha speso un sacco di soldi. Probabilmente innamorato come Garcia di non per fare l'esegesi del testo, tutto qua. No, non per fare l'esegesi del testo, ma Pardo faceva riferimento ad un aspetto particolare, cioè al fatto che ha chiesto una cosa sulle punizioni, punizioni, e io ho detto che poi, non mi sembra che sia un aspetto particolarmente evidente, particolarmente patologico del gioco della Juve, che semmai la Juve ha un problema rispetto all'anno scorso, che non ha più Pirlo che batte le punizioni. Che è un aspetto specifico, però è anche difficile sostituire giocatori italiano, come Pirlo, perché non ce ne sono altri in giro. Io non sono dell'idea che la Juventus abbia sbagliato la campagna acquisti per nulla, anzi, mi sembra una squadra. Nessuno l'ha mai detto. L'unico dubbio, Carlo, che ci può essere è legato ai tempi, no? È chiaro che la Juve ha fatto alcuni investimenti, l'altro giorno ha esordito nel finale Lugani, Dybala già lo stiamo vedendo, la Juve ha fatto alcuni investimenti che sono investimenti ovviamente in prospettiva, fatti in un'ottica di medio periodo dopo anni successi, quindi questo può essere secondo me l'unico vero punto interrogativo della Juve di quest'anno. La Juve ha davvero speso molto sul mercato quest'anno e questi i risultati non arrivano, e come dice il nostro ascoltatore è vero che non è stato messo, cioè non si è programmata non sono state programmate le sostituzioni di alcuni elementi importanti, perché che Tevez volesse tornare in Argentina lo sapevano da molto tempo, ora chissà che fine farà, forse torna in Brasile, non si è capito, che Pirlo avrebbe smesso comunque di giocare in Italia la Juventus probabilmente lo sapeva e forse doveva muoversi prima, forse paradossalmente doveva accettare le offerte per Pogba e ricostruire. Adesso è facile dirlo, però lo abbiamo scritto e l'abbiamo detto alcune volte, e forse costruire una squadra nuova. È vero che ha investito tanto Dybala, Lugani, ha speso il doppio, se non il triplo di quanto, più di 120 milioni quanto aveva speso nell'ultima campagna acquisti, però i risultati sono questi e non c'è nessuna assicurazione che gli investimenti fatti da Marotta quest'anno poi siano investimenti che premiano i soldi, però non c'erano neanche molte alternative, perché nella storia della Juventus, però Asamoah ad esempio è un grande investimento della Juventus e non mi sembra che in questo momento sia stato un giocatore che abbia ad esempio ripagato quello che sono, però è evidente che la Juve quest'anno si è trovata a dover gestire una situazione non di rifondazione, deve immaginare una situazione particolare, cioè una situazione di rivoluzione che in ogni caso portava dei rischi, cioè non è che la Juve ha deciso di suicidarsi e di vendere alcuni giocatori, però poteva essere più chiara in questa, poteva dire questo sarà un anno di transizione, cosa che fa capire Bonucci ad esempio, cosa che in parte ormai comincia a dire, spera che la società gli vada dietro Allegri, e che invece la società non dice, perché la Juventus deve sempre vincere. sempre vincere, ma non se fa una rivoluzione importante come quella che ha fatto quest'anno, non certo, quantomeno in Italia. Però ragazzi, vi saluto. Aspetterei ancora un pochino prima di. Sì, aspetterei. A me l'organico piace. Grazie, Giampiero. Ciao, grazie. Ciao, Pier. Sentiamo domenica con te, naturalmente. Sì. Allora, prima di Ettore da Rimini, prima di andare sulla formazione dell'Italia contro l'Irlanda ai mondiali di rugby, altra voce genovese, Andrea Ferro. Che ciao, consiglio. Carlo. Gli ascoltatori di Radio 24. Allora. Cronaca. Non posso che fare la cronaca. Diluvia. Sì, ancora. Cioè, te lo dica io, diluvia. No. ci sono problemi di allerta meteo, eccetera. E domenica c'è Sampdoria. Allora sto guardando le carte sinottiche, mi sono documentato minuto per minuto per essere pronto a questo tuo quesito. Allora, pioverà fino al primo pomeriggio di domani, poi ci sarà una tregua. Poi dalla serata di domani nuova acquazzone, anche se non è chiaro di quale intensità, e poi domenica mattina dovremo svegliarci con il cielo sgombro di nuvole o quasi, quindi la partita non è a rischio. Sarebbe a rischio solo se scattasse l'allerta 2, ma mi sembra. Vedremo Zenga contro Mancini senza problemi, senza impermeabile. Sì, forse con le bretelle. Come lo vedi Mihajlovic a Milano, Andrea Ferro? Io come lo vedo? Io avrei preferito vederlo a Genova ancora un po', devo dirti la verità. Io non sono un grandissimo. Perché prende così tanti gol? Non lo so, io credo in questo momento ne prende anche la Sampdoria senza Mihajlovic, i gol, è tanti. Cioè, obiettivamente, non credo, credo che prima parlavate del calcio genovese, mi sembra che il grosso limite della Sampdoria sia la difesa. Credo, a me. Sì. No. L'anno scorso un po' meno. Sì, un po' meno. E il Milan comunque ha evidentemente ha voluto Romagnoli. Sai, il tifoso genuano è anche Giacomo Bagnasco, lo sai. Certo. Anche Timossi era tifoso. Anche Timossi. Giacomo, ciao. Eccoci qua, ciao. Sono anche tifoso della nazionale di rugby. Sì, questo lo sappiamo. Però sappiamo vediamo bene cosa succede domenica. È stato pronunciato il verdetto sulla formazione dell'Italia contro l'Irlanda in questa impresa che sembra disperata e che è l'unica via per passare il turno? Sì, è stato pronunciato, è stato sciolto il dubbio, il talismano, come viene definito dalla stampa inglese dell'Italia, Sergio Pariste, sarà in campo col numero 8 e questa è la più grossa novità. Non è l'unica perché giocherà Aghero al posto di Rizzo in prima linea, Manici prende il posto di Giraldini infortunato, soprattutto Zanni, giocatore a sua volta quasi inamovibile in terza linea, stavolta è sostituito da Favaro. E Castro Giovanni non so se ha problemi fisici, confesso che non mi risulta, però potrebbe essere, non va neanche in panchina. Partita difficilissima in un fine settimana ricchissimo di incontri da non perdere perché ci sono Samoa, Giappone, Sudafrica, Scozia, col Sudafrica che rischia ancora di rimanere fuori, Inghilterra, Australia, e se l'Inghilterra perde è fuori dal mondiale, che è una cosa neanche da credere, se vogliamo. E anche questo Irlanda-Italia, che comunque è una sfida decisiva, per la quale infatti l'Irlanda schiera la formazione al momento migliore. Sì. Sicuramente non ci prendono sotto gamba, ma ci mancherebbe altro, non avrebbe alcun senso. A questo punto però l'Irlanda deve continuare a vincere, possibilmente battere anche la Francia per evitare la Nuova Zelanda nei quali. Francia, però mi pare che anche insomma la vittoria larghissima sul Canada non era in discussione, però mi sembra che la Francia sia anche in un grandissimo momento. Giacomo, ti ringrazio. Perché mi fai il cenno di salutare? Non riesco a parlare con Ettore? Riesco. Ettore da Rimini, buongiorno. Abbiamo un minuto e mezzo. Sì, pronto. Ettore, eccoci. Senti, dica. Ciao. Buongiorno. Io volevo intervenire ancora sulla discussione di prima che avete affrontato con Pado sulla Juventus. Io non sono d'accordo col vostro ospite di Genova sulla fatto che Timossi, perché secondo me la campagna della Juve è assolutamente all'altezza, io sono convinto che la Juve se la possa giocare fino alla fine in Champions League, che sia partita male in campionato solamente perché c'erano problemi di stimoli dopo 4 anni di vittorie, mentre in Champions League a mio avviso la squadra titolare, se la andiamo a analizzare, con un centrocampo con Khedira, Marchisio, Pogba, sfido a trovarne di più forti, e davanti secondo me Morata non è inferiore a Cristiano Ronaldo e a Messi. Questa è grossa. Questa è grossa. Fino a lì ero d'accordo su Morata non inferiore a Cristiano Ronaldo, Messi, aspetterei un attimino. Però sono d'accordo sul fatto che, insomma, non è tanto una questione di campagna acquisti sbagliata, giusto o sbagliata, questo lo dobbiamo ancora scoprire, anche perché Allegri ha avuto molti problemi di infortuni e così via. Si tratta semplicemente di una squadra nuova che ha bisogno probabilmente di tempo e di un po' di certezza in più. Chiudiamo da Genova? Benissimo, grazie anche ad Andrea Ferro per l'aggiornamento su Piovigina. Piovigina, un Sampdoria Inter che comunque non è a rischio. Giorgio De Luca, qui con me, nostro autore, Michele Previato in regia, Giovanni Melchiori in redazione, poi chi c'è? Gianmarco Veronati in regia a Milano, benissimo. Allora vi salutiamo da Genova, ci sentiamo domenica con tutti i convocati weekend dalle 17 alle 19. Ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao. We'll be right back.